strada cerco fortuna, perché non c'è niente, questo sogno che dà coraggio in me. Anche se ero stato un po' male, io cercavo il miele nel progetto che ho, credendoci, io lottando come non mai, quasi inseguendo i guai pur di arrivare da lui, ferendomi. Sogno e vedo questo momento in un futuro incerto, senza mollare mai, sperandoci. Infinita, infinita, la speranza dentro ai sensi miei. In salita, la mia vita, dentro il sogno e metto l'anima per l'obiettivo. Sento, ascolto poche persone, anche se sono vuote, ma lo stimolo in me aumenterà. È questione di sentimento, di forza interiore, della mia volontà di crescere. Anche se bisogna soffrire, di perseverare nei momenti più bui mi servirà. Ottimismo in ogni momento, metto a fuoco l'istinto e la fede che in me felicità infinita, infinita, la speranza dentro ai sensi miei.